sussurra il vento come quella sera, vento d'aprile di primavera, che il volto le sfiorava in un sospiro, mentre il suo labbro ripeteva giuro, ma pur l'amore è un vento di follia che fugge come sei fuggita tu. Vento, vento, portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento dove le stelle brilleranno a cento e senza alcun rimpianto voglio scordarmi un tradimento. Vento, vento, portami via con te. Passi lieve come una chimera, vento d'aprile di primavera, tu che lontano puoi sfiorarla ancora, dille che io l'amo ed il cuor mio l'implora, dille che io freno dalla gelosia, solo al pensiero che la baci tu. Vento, vento, portami via con te, tutte le mie pene, dille che ancor le voglio tanto bene, sotto le stelle chiare, ora se ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Stelle chiare, forse ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Sussurra il vento come quella sera, perché non torno.